24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui. Buongiorno, sono le 6:34 minuti e ci siamo anche oggi, cari ascoltatori. Siamo in diretta fino alle 9 e, come al solito, l'imperativo che vi vogliamo anche oggi dare è questo. But please relax. Come sempre, please relax. Mario Monti che ci aiuta insieme al nostro alpino Peter Bescapè ad aprire il nostro bar. Lo apre. Il caffè volentieri a tutti quanti. Caffè corretto per chi lo vuole, offre Nicole Minetti, offre a tutti, anche alla nostra Miriam Lucchetti in redazione. Se volete scriverci messaggi 349-238-6666, siamo su Twitter, siamo su Facebook, siamo connessi e siamo con... Saluto con piacere il ritorno di Corrado Formigli, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno a voi. Eccoci, reduce da Piazza Pulita, una stagione davvero positiva e proficua. Saluto anche, ben ritrovato, il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, oggi i giornali aprono, vabbè, c'è Obama Romney ovviamente sulle prime pagine, ma tanto noi domani faremo un lungo speciale. Veniamo alle cose sulle quali, le cose italiane che mi hanno un po' più incuriosito. Per esempio, ecco, Libero, visto che abbiamo Nemanzoni, apre su quello che è successo ieri ai funerali di Rauti. Vogliamo sentirlo? Insomma, c'è stata una contestazione abbastanza clamorosa, non lo so, forse era anche attesa. Comunque, una contestazione a Fini, pare anche da Corriere della Sera sia stato raggiunto da uno schiaffo il presidente della Camera. Questi sono i presenti dei camerati che salutano Rauti, la salma di Rauti, e poi c'è stata la contestazione a Fini. Urla, spintoni, sputi, pare, e questo è il titolo di Libero a tutta pagina, sputi a Fini. Pare uno schiaffo, secondo il Corriere della Sera, dove parla Assunta Almirante. Al Corriere della Sera dice: l'ho visto col volto teso, pallido. A un certo punto si sono fatti avanti due energumeni e io gli ho puntato l'ombrello, gli ho detto: fatevi avanti e vi tiro questo ombrello in testa. E Assunta dice: loro si sono fermati perché io ai camerati appena parlo loro mi rispettano totalmente. Fini, che oggi è intervistato al Secolo XIX, liquida così la faccenda: parliamo di cose serie, dice, con Giovanni Palombo. Certo, questa contestazione mi fa capire che io ho un'idea della destra profondamente diversa da coloro che hanno inscenato queste cose. Allora, vogliamo partire da qui. Corrado Formigli, ti ha stupito questa accoglienza calorosa a Fini, per usare questo termine? No, devo dire che mi ha stupito il coraggio di Gianfranco Fini di andare a sfidare una situazione che, diciamo, purtroppo era prevedibile. Quello che mi stupisce è lo stato, diciamo, della destra italiana, nel senso che quello che il percorso che ha fatto Gianfranco Fini in questi anni, al di là delle scelte politiche che riguardano Silvio Berlusconi, l'appoggio al governo, è stato comunque un tragitto, un percorso, diciamo, molto chiaro, di presa di distanza dall'anima differente, anche un po' più trucida, sì, no? Della destra nostalgica italiana. La cosa che mi colpisce è che invece ancora oggi questa destra, in un momento di grande difficoltà, di individuazione di una linea, di un percorso, anche di un leader da acclamare, ci siano questi rigurgiti, insomma, sì, ci sono state identitari così forti. Le urla, traditore, Badoglio, vai in sinagoga, pare che qualcuno le abbia anche urlato. Massimo, perché avete scelto di aprire sul Libero su questo, che è sicuramente una notizia? Tra l'altro c'è un editoriale di Belpietro che dice: noi non siamo certamente amici di Fini, non lo stimiamo, però è stata un'accoglienza sbagliata, ecco, un'accoglienza esagerata questa, no? Addirittura sputi al presidente della Camera. Sì, non è stato un bello spettacolo, sicuro. Abbiamo scelto di aprirci perché è stato un fatto significativo, in qualche modo, appunto, sia di come sottolineava Corrado, si è ridotta anche una certa destra, sia di come Fini l'abbia ridotta, perché ha cooperato a ridurla così, nel senso che non... Cioè, noi non abbiamo visto con piacere il percorso del Presidente della Camera negli ultimi tempi, ma non tanto sotto il profilo appunto della modernizzazione, come si diceva, della destra, quanto sotto il profilo di una serie di mosse, tradimenti, non tanto di ideali quanto di comportamenti, cioè non è stato leale con gli alleati, non è stato leale col partito. Però queste quindi sono evoluzioni politiche, uno le può contestare oppure no, le può criticare, le può appoggiare. Come scriviamo chiaramente, però non si fa così, cioè, questo non è il modo di contestare. No, come diceva Corrado, certamente anche Assunta Almirante, infatti lo dice in questa intervista al Corriere della Sera, dice Corrado, certo, per una volta ho detto a Gianfranco Fini, hai avuto davvero coraggio a venire qui, ma non lo dice provocatoriamente, dice per una volta hai dimostrato davvero di avere gran coraggio a venire in una situazione. Sì, era la fossa dei leoni, esatto, cioè, no? Mi pare abbastanza chiaro il senso della sfida di Fini, insomma, è evidente che lui sia andato lì per una sfida. Ora, ripeto, si può dire di Fini tutto il suo contrario dal punto di vista del suo percorso politico e anche di alcuni, diciamo, inciampi che ha avuto in questo appunto in questo percorso, però una cosa è chiara, che comunque Fini ha portato una parte della destra verso un obiettivo, diciamo, accettabile, in qualche maniera rifondato una destra repubblicana che in Italia non c'era, insomma, comunque era completamente sì, non è che politicamente pare venga molto premiato, questo no, venga molto seguito da questo punto di vista. Su questo ho qualche dubbio, che abbia fondato una destra repubblicana. Ha preso delle posizioni molto personali che gli sono stati utili per un certo tipo di carriera personale, ma nelle quali si è portato veramente molto poco della destra. Si è portato alcuni fedelissimi e ha fondato un piccolo partito che in questo momento non gode di eletto in Parlamento. Non gode di tantissima un piccolo partito che ha tagliato definitivamente il pubblico con queste fascisterie varie e violente, no? Questo è già molto. Insomma. Sì, ecco, Corrado, tu punti molto su questo. Ha voluto rompere con un certo passato nostalgico che anche ieri si è manifestato a questi funerali. Effettivamente questo va premiato dal punto di vista del percorso storico di un partito, oppure poi uno deve misurare tutto in termini di voto? Penso che questo sia un merito, ripeto, un merito di Fini. Ricordiamoci che appunto la destra che aveva preso in mano Fini, la destra che faceva ancora il destro il saluto mussoliniano, il saluto umano, era una destra che faceva fatica a fare i conti l'olocausto, con i campi di concentramento. Ricordiamoci la visita di Gianfranco Fini al museo dell'olocausto, sì, a Gerusalemme, con una cesura molto forte con il passato, insomma, e infatti questo è quello che le hanno un po' riproverato anche ieri in questa contestazione clamorosa. Possiamo certo rimproverare noi, questo assolutamente, se devo scegliere da che parte stare in quella giornata di ieri, di certo sto dalla parte di Fini, non di chi gli urlava vai in sinagoga. Allora, cambiando argomento, no, tra l'altro Fini nell'intervista oggi sul Secolo XIX parla dell'incandidabilità e dice via i condannati. Io su questa cosa di via i condannati non ho ancora capito, perché guardate il Corriere della Sera per esempio cosa scrive: stanno inserendo queste tre paroline magiche, salvo intercorsa riabilitazione, nel disegno di legge che stanno mettendo a punto, un disegno di legge che sarà, pare, difficilissimo perché sarà contestato in tutti i modi. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha una condanna vecchia, per esempio si fa l'esempio del deputato Marcello De Angelis, che è il direttore del Secolo d'Italia peraltro, e che ha una condanna a 5 anni e 6 mesi per banda armata, associazione sovversiva, ma è stato riabilitato, dunque in questo caso uscirebbe dalle maglie strette dell'incandidabilità. Oppure Salvatore Sciascia, già ufficiale della Guardia di Finanza, condannato a 2 anni e 6 mesi per aver corrotto alcuni colleghi delle Fiamme Gialle, se è stato riabilitato potrà candidarsi. Ma che è così? Non so, Corrado, Massimo, Corrado, è una buffonata se viene fuori così, cioè cosa facciamo? È sicuramente una buffonata se viene fuori così, perché praticamente viene introdotta una sorta di buona condotta Allora che senso ha dire un condannato via? Avremo Sciascia che si è definito non un corrotto, bensì un corruttore, con una puntina di orgoglio di nuovo in Parlamento. Mi auguro che questa norma non venga assolutamente approvata. Insomma, è possibile. La cosa che mi colpisce è che in Italia non si riesce mai a fare una norma che valga fino in fondo. Una possibilità di uscita di sicurezza. Era questo forse che si riferiva ieri Massimo Cacciari, il nostro ospite qui, alle 8:30 ha detto: ma attenzione, perché in Italia, fatta la legge, si trova sempre l'inganno. E io ingenuo gli ho detto: e come si fa a trovare un inganno se si pone un paletto di 2 anni? Eccolo qua, potrebbe essere questo, Massimo De Manzoni, l'inganno. Cioè, uno c'ha una condanna pregressa, ma siccome è stato riabilitato, e allora non facciamo neanche la legge per i condannati, no? Detta così, oggettivamente suona falsissimo e suona male. Dentro quel calderone penso che ci siano anche però, per esempio, i radicali e le disobbedienze civili radicali con la droga. Sì. E quindi sarebbe un modo di recuperare anche questo tipo di reato, che era un reato fatto in un certo modo, cioè una provocazione. Io capisco che ci siano reati e reati. Non so, per esempio, mi viene in mente quando Maroni è stato condannato per resistenza pubblico ufficiale, perché quando hanno fatto la perquisizione alla Lega Nord. Io adesso non è che voglio fare la verginella, ma non mi sembra quello un reato per cui bisogna stroncare una carriera politica, voglio dire. Però qui si rischia con l'essere lassisti che poi tutti in cavalleria. Dunque, avete citato De Benedetti che parlava di uno ogni 10 come facevano i tedeschi, e chi mai ha sbagliato? Perché come facevano i romani, se la chiamavano decimazione. La parola candidato deriva da candido, parola latina che vuol dire bianco, pulito. Quindi è chiaro che uno per candidarsi deve essere pulito, altrimenti è incandidabile. Ciao, saluti. Radio Buio 24 ore. In piena demoplutocrazia ci ammannisce eterne monotonie di esseri ripugnanti fino al vomito quando si mangia un meritato costoso boccone, e mantiene ottusi, orridi, blatenanti, mentre gli italiani sanno bene che i soldi sono cifre chiare e non imbrogli, e schifano stolte false chiacchiere che voi tutti, sbagliando ortoepia, chiamate chiacchiere. Bye bye. L'Italia allenta la burocrazia. Sono andato a convalidare un contratto di affitto alle imposte dirette, 4 pagine, e l'impiegato ha contato le righe. Più di 100 righe ha detto che deve andare a comprare altri 2 bolli, 2 marche da bollo da 15 euro. Mi sono sentito Benigni e Troisi, non ci resta che piangere. Buongiorno. Ha ragione quel signore, siamo feccia, e ha ragione, facciamo proprio schifo. Vabbè, siamo feccia, era ieri il nostro Alberto Forchielli, siamo feccia, ha detto di noi italiani, quando lui va all'estero, siamo feccia. C'era anche una poetessa, no, che ci ha lasciato praticamente stupiti nella nostra segreteria telefonica. Siamo con Corrado Formigli, siamo con Massimo De Manzoni per parlare un po' delle prime notizie del giorno. Vi voglio far parlare di Elsa Fornero, è il ministro del welfare. Ieri se n'è uscita con una novità, è arrivata un convegno, ha scoperto che c'erano i giornalisti, li voleva mandare via, perché se ci sono i giornalisti, altrimenti sentite la teoria di Elsa Fornero, poi voglio un vostro parere. Se ci sono i giornalisti dovrò parlare lentamente, perché devo pesare ogni singola parola. Diciamo che questo impone, quindi parlerò molto più lentamente, perché dovrò ogni parola pensarla. Naturalmente farò degli errori, questo è indubbio, e quindi saranno gli errori a fare i titoli, non così. Io questo l'ho imparato sulla mia pelle. Tu parli 40 minuti e dici delle cose sensate, pacate, positive, poi ti scappa una parola ed è quella che prende, una parola, non sto parlando di frasi, di cose motivate, no, basta una parola, ma quella fa il titolo e determina dibattiti che durano settimane. Questo è uno stato del mondo, e quindi è inutile lamentarsi. È inutile lamentarsi, no, Corrado Formigli, ma il ministro Formigli, cioè via i giornalisti, se no devo sparare cazzate. Questo è il primo discorso con la scusa incorporata che abbiamo mai sentito, diciamola. Ce l'ha già in partenza, così sì, esatto. Evita, diciamo, qualsiasi problema. No, non posso pensare come abbia potuto parlare più lentamente di così la Fornero. No, più che altro io posso anche capire, da tecnica terrorizzata nei confronti di questi diavoli di Libero, per esempio, no? Pronti a prendere una frase della Fornero e spararla come titolo. Cioè, è un lavoro nel lavoro, questo, eh? O no, Massimo De Manzoni? È il rischio di fare i politici e di parlare in pubblico, certo. Che dire, mi tocca pensare le parole, perché non ho detto pesare, ho detto pensare. Io sono un po' terrorizzato da un ministro che dice devo pensare, ma solo se ci sono i giornalisti. Vedete, qualunque cosa dica il ministro Fornero viene, no? Fa bene a cacciare i giornalisti, razza dannata che poi prende le parole, tipo Staciusi l'hanno impiccata, mamma mia. No? Ma anche lei, ma come le viene di dire Ciusi? Ma lei è una tecnica, cioè un concetto molto anglosassone del mercato del lavoro, eccetera. Io difendo Elsa Fornero, so, Corrado Formigli, che ha avuto modo anche di conoscerla, ma è così ingessata. Cioè questa... Non so, da noi non siamo mai riusciti a ospitare la 7, forse proprio perché, come dire, è molto preoccupata delle parole che usa, e sai, in televisione quando si sta anche abbastanza lungo ospiti bisogna anche un pochino ceruto lasciarsi andare, magari di parole sbagliate qualcuna te ne può scappare. La Fornero, se non altro da questo punto di vista, è abbastanza, ha capito che insomma la televisione è un territorio che forse non è proprio adattissimo alle sue caratteristiche, insomma. Però a memoria non so, non c'è qualcuno che è arrivato a dire ai giornalisti mandatevi via, e altrimenti poi le accettati, vabbè, e allora se devono rimanere sarò costretta a parlare con molta lentezza, a pesare le parole. Non mi pare che siano uscite gas clamorose però da quel, no, da infatti, si sarà preparata la gaffa in sera, si saranno tutti addormentati, non se ne è accorto nessuno. Però Corrado dice, Massimo De Manzoni, che la gaffa è già nel momento in cui chiedi ai giornalisti di uscire. Infatti i titoli sono su questi: la Fornero caccia i giornalisti, vedi Libero come la caccia i giornalisti, ma non è che li ha cacciati, dai Massimo, ci ha provato. Non c'è riuscita, poi per altro punto non c'è riuscita. Vabbè, in chiusura datemi un pronostico su Obama Romney, che insomma pare che sia proprio lì a contare i voti, già partono le contestazioni in Florida, sono sicuri che bisognerà contare tutto manualmente. Corrado, come finirà? Ma io mi auguro e penso che Obama verrà riconfermato e avrà altri 4 anni per andare avanti. Penso che Obama sia stato complessivamente un buon presidente degli Stati Uniti, il momento più difficile dello scorso secolo, anche insomma. E tu invece credo che ce la farà. Prima di Massimo De Manzoni, tu invece adesso che fai? Finita l'esperienza a Piazza Pulita? No, noi stiamo lavorando a uno speciale di Piazza Pulita che andrà in onda il 16 di novembre, poi faremo un altro prima di Natale, poi ripartiamo i primissimi di gennaio, tutti i giovedì. Insomma, sempre giovedì, certo. Benissimo. Quindi su Piazza Pulita, sulla 7, con Corrado Formigli, Massimo De Manzoni, Obama Romney. Allora, io spero il contrario di Formigli, spero che non vinca Obama, perché non ha gestito bene la crisi, non ha gestito bene le crisi internazionali, delle primavere arabe. Dopodiché chi vincerà non lo so. Ieri c'era una pagina fantastica sulla stampa piena di esperti che dicevano: ma no, vincerà di poco questo, vincerà di poco quell'altro. Clamorosamente vincerà Romney, clamorosamente vincerà Obama. Sì. Non lo so, so che ci sono migliaia di avvocati nei seggi sono già pronti lì. Grazie davvero a tutti voi, Corrado Formigli e Massimo De Manzoni, per essere stati qui. Escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione, devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Martedì 6 novembre, i titoli.

un uomo politico sentirsi urlare addosso, traditore, è finita. Guardi che Fini oggi in un'intervista al Secolo XIX dice non avevo certo bisogno di una dimostrazione per capire che io sono diverso da quella destra che mi ha contestato. Forse è peccato che lui l'ha guidata per 30 anni, quindi se l'ha accorto tardi. E vede, ma la cosa che più mi colpisce, non ho ancora avuto modo di vedere il giornale di stamane, che non c'è stato uno straccio di reazione solidale, se non uno sparuto gruppetto suo, a quella che è oggi la terza carica dello Stato. Ma lei, non c'è stato nessuno nel mondo politico e istituzionale che ha detto una parola a sua difesa, e questo vuol dire qualcosa, vuol dire che tutti concordano che ha sbagliato e di grosso. Ma senta, quei bracci col saluto romano, oggi il Corriere è l'immortale ancora, quelle... Ma sono 60 anni come fanno, insomma, il fatto che si faccia... Capito, non per questo non si possono condannare. Ma un funerale, la gente viene ricordata come si crede, insomma, adesso che bisogna fare la vivisezione di come si sono comportate le persone a un funerale, insomma, mi sembra eccessivo. Si rispetti il dolore, ecco, questo mi sento di dire. Questo sì, però Storace, il fatto che Fini ribadisce sempre in questa intervista il fatto di essere, come dire, insultato da quelle persone lì, cioè uno sparuto gruppo di persone che urlano camerata fanno il saluto romano, dice in qualche modo lui lo rimarca come un qualcosa di positivo per il suo percorso politico, come dire, ecco, io non sono più quello lì. Quindi è vero che è venuto a fare una provocazione, su questo mi sta confermando, quindi vuol dire che a freddo lui ha sostenuto che dovevo dimostrare di essere diverso da loro. E le pare normale che un presunto statista, la terza camera dello Stato, si metta a giocare con i sentimenti di persone che stanno a un funerale? Io credo che questo sia indecente. Senta, parlando di cose politiche, Fini ha detto ci vuole l'incandidabilità anche al primo grado di giudizio per i condannati. Lei di recente è stato assolto dopo una vicenda, dice nessuno ne ha scritto niente. Dopo quanti anni è stato assolto? Sette anni. Lei è d'accordo sul fatto che... Diciamo, è molto più ampio della pena. Il calvario è stato più ampio della pena presunta, diciamo, più volte l'anno. Però lei dove porrebbe un paletto per l'incandidabilità di una persona condannata? Al primo grado, al terzo grado, oppure chi se ne frega, oppure all'indagine in corso? Semplicemente non li candiderei, punto e basta, cioè non dovrei aspettare la legge. Non riesco a comprendere perché ci voglia una legge. Se uno è condannato, a meno che stiamo parlando di reati che non c'entrano con la pubblica amministrazione o di particolare allarme sociale, certo, il giornalista che si è beccato una condanna per diffamazione non credo che sia un motivo per non fargli fare politica. Credo che ci siano sotto fattispecie di reati, chiamiamole così, che possano non prevedere una sanzione di quel genere, non è chiaro, la corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione. È evidente che devo trovare una sanzione anche di carattere etico. Però i partiti lo devono stabilire, non ci vuole una legge, però i partiti non lo stabiliscono. Cioè il codice etico dei partiti è un po' una barzelletta o di molti partiti, e quindi se è resa necessaria, si rende necessaria una legge. E quindi non si voteranno quei partiti e quei candidati, punto. Cioè io credo che alla fine quell'arma ce l'abbia il popolo, ma no, cioè, se mi ripresenti una lista in cui dentro c'è, che so, qualcuno di questi personaggi, ormai purtroppo sono tanti, che sono balzati sulle cronache dei quotidiani, l'elettore allarma di non votare, di scegliere altrove. Ma non c'è solamente il reato, perché poi prevale anche un senso etico, pure la presentabilità dei candidati. Ad esempio è giusto candidare chi spreca soldi senza pur commettere reato? È giusto candidare chi sta da 30 anni in Parlamento? Perché anche queste sono questioni, no? Cioè, se lei prima parlava dei saluti romani, gliela dico con una battuta che però ha un profondo senso morale rispetto al tempo che viviamo. In questo paese Mussolini ha governato 20 anni, 22 anni, e in Parlamento io al 23° anno li caccerei, insomma. Visto che è una democrazia. E cioè metterebbe un limite ai mandati? Ma certo, cioè più di 20 anni, ma dico, cosa, io ci sono stato 8 anni in Parlamento, a me sembra un'eternità. E c'è gente che ci vuole morire, c'è Pisano che ci sta da 40 anni. E vuole il record, vuole il record di longevità, vuole. Ma io credo che questo sia un errore clamoroso, perché si può fare politica anche nel territorio. Io credo di averlo dimostrato, ma tanti altri, cioè non è che il territorio è qualcosa che esclude la possibilità di partecipare con la passione che ti viene dalla politica. Se però devi stare per forza in Parlamento, ma la politica la facciano i domiciliari, ecco, diciamo così. La facciano i domiciliari, si può anche vederla così. Senta, il Lazio, lei è ancora convinto che Renata Polverini non abbia nessun tipo di colpa di quello che è successo? Guardi, io volariamente le ho dato la colpa di essersi dimessa, perché poi in tutta Italia è successo di tutto e di più, e si è dimesso semplicemente chi stava sul fronte di centrodestra, mentre quelli che stavano sul fronte di sinistra sono stati tranquillamente al loro posto. La Polverini aveva manco inquisita, però ormai l'ha decisa, e lui che piange sul latte versato. Adesso si deve aprire un'altra pagina, di cui ci vuole sicuramente un dato di moralità anche riconoscibile, evidente, trasparente, ed è chiaro che bisogna mettersi in campo tutti quanti. Credo che il centrodestra, perché da questa parte del campo siamo per ora assisi, sì, debba fare bene le sue scelte, debba ponderare. A proposito di centrodestra, stamattina me ne sono occupato, sì, sull'edizione online del Giornale d'Italia, ho fatto un articolo dedicato a questa presunta candidatura, sì, della dottoressa Patone, una degnissima persona. Chi è? Non ho capito però che cosa c'entra con le scelte politiche sulla regione. Senta, ma invece lei ha sciolto, e se si ricandida o no, prova, può ancora sperare di alla regione Lazio, intendo, a governatore? Guardi, io sono reduce da una sentenza di assoluzione su un fatto che 7 anni fa determinò voci scandalizzate, si parlò di scandalo. 7 anni dopo il fatto non sussiste, quel presunto scandalo scoppiò 10 giorni dal voto, io fui inseguito da torme di giornalisti che mi chiedevano conto di quello e non dei 5 anni successivi come avrei voluto governare. Quindi posso dire che quello presunto scandalo influì moltissimo sulla mia sconfitta. Detto questo, ed è evidente che siccome non sono un ipocrita, e almeno questo uno si riconosce, sarei un ipocrita se dicessi che non mi piacerebbe tornarci. Ma io voglio rispettare quelle che devono essere decisioni che spero collettive. Se invece il centrodestra, comunemente inteso, che poi in realtà è un suo pezzo, il PDL, decide di andare avanti per fatti compiuti, ognuno della sua strada, o si discute o si decide. Sì. Vabbè, però non ho ancora, cioè non me l'ha detto chiaramente se si candida o no. A me piacerebbe. Fare il, ma ci deve essere il consenso dei partiti e poi dei cittadini. Da solo, chiaro, da solo. Che se alla indizione dei comizi, perché di questo stiamo parlando, questa scelta non è avvenuta, parto, non c'è dubbio. La ringrazio, buona giornata a Francesco Storace, che è leader della destra. Siamo qua allora, sono le 8:32 minuti e con noi in studio, negli studi di Radio 24, c'è Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, candidato, uno dei candidati alle primarie del centrosinistra. Sindaco, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ascoltatori. Allora, togliamocelo subito di mezzo, Obama o Romney, chi vince oggi, una previsione? Spero Obama. Per Obama, lei poi è stato anche lì, quindi... A Charlotte, alla convention dei democratici a settembre, poi ho avuto anche la fortuna di poter poco più che stringere la mano al presidente Obama. Credo però che sarebbe molto importante, al di là dell'opinione personale, del sogno, del cambiamento, dell'avanti, i messaggi che Obama ha dato, che Obama vinca anche per la tenuta dell'economia europea. Insomma, non è che il dibattito sull'Europa sia stato particolarmente interessante per i due candidati, no, non se la sono filata neanche di striscio, per utilizzare un tecnicismo economico, però credo che sia molto molto importante che Obama possa farcela, per dare anche un momento di solidità a un clima internazionale molto complesso. Senta, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, oggi qua negli studi di Milano, ecco subito che inizieranno le accuse. Chi governa Firenze in questo? Che è l'accusa che le stanno facendo di più in questo tempo, in questo giro dell'Italia? Lei, per esempio Beppe Grillo, dice ha abbandonato il comune di Firenze. Ma al di là che oggi c'è giunta, per cui appena ho finito con lei prendo un treno e torno in città, ma questo serve a poco. Io ho fatto un giro in tutto il paese, ho terminato le mie 110 province, le hanno accorpate un po' tardi per il tour, e in questo periodo credo che abbiamo fatto l'elenco e l'abbiamo messo online di tutti gli eventi a cui ho partecipato e le iniziative che stiamo seguendo. Se per un mese e mezzo il sindaco svolge anche una funzione di natura politica Credo che questo riguardi i cittadini di Firenze, e i cittadini di Firenze sapranno dirci se questa è una cosa che va bene o meno. Però la polemica di Grillo è più sui conti del Comune di Firenze, sì. Perché io vorrei un bel dibattito con Grillo in televisione, alla radio, se lei è disponibile, da qualche altra parte. Io sono quello che ha abbassato. È Grillo, temo che non. Beh, insomma, Grillo non credo. Cioè, basta che non chieda un confronto a nuoto, per il resto, diciamo, me la gioco praticamente ovunque. Addizionale IRPEF che viene meno dallo 03 allo 02, unico comune in Italia ad abbassare le tasse. Abbiamo venduto le auto blu all'asta, asta online, abbiamo dimezzato il numero degli assessori, abbiamo ridotto gli affitti passivi di 6 milioni e 200 mila euro. Vogliamo parlare dei soldi del Comune di Firenze? Io ci sto. Grillo, mi dica quando, a che ora, e noi ci stiamo. Quindi dice: io non ho abbandonato nessun comune e i conti del comune sono a posto. Discutiamo, se vogliamo, del Comune di Firenze, di come il Comune di Firenze ha investito in questo periodo su una lotta alle costruzioni eccessive, piano strutturale a volume zero. Cioè, non so quanto è interessante ragionare dei musei aperti fino a mezzanotte nella mia città. Se vogliamo discutere di come viene governata Firenze, io ci sto. Il punto è un altro, il punto è che il 25 novembre, per la prima volta dopo tanto tempo, c'è un cambiamento possibile. Poi naturalmente non è detto che sia un cambiamento in meglio o in peggio, ciascuno valuterà. Ma è il cambiamento all'interno del centro-sinistra, perché per la prima volta le primarie sono primarie vere, contendibili. Sono primarie dove uno se la gioca, non è già scritto il risultato finale. Allora di questo credo che gli italiani, a questo forse gli italiani sono interessati. Se gli italiani sono interessati a quello che accadrà il 25 novembre, beh, penso che per noi sarà importante riuscire a mettere contenuti e idee, non discussioni e polemiche con Grillo. Ma a questo proposito, Flores D'Arcais ha detto: io voterei Grillo e Renzi, così si spacca tutto, e votando anche Renzi, se vincesse Renzi, si spacca il Partito Democratico e azzeriamo tutto, diciamo, questa lei, mania distruttrice. Lei ricorda una previsione di Flores D'Arcais avverata negli ultimi 20-25 anni? Se vince Renzi, no, non distrugge nessun partito. No, sarebbe una novità che ci fosse, diciamo, sarebbe la prima volta che Flores D'Arcais inventa una soluzione, intuisce o indovina una soluzione, un esito diverso. Cioè, ci sono questi professionisti dell'intelligenza che pensano di aver capito tutto. Io credo che se vinciamo, intanto, se vinciamo le primarie non si spacca tutto, se vinciamo le primarie si apre una stagione nuova nel centro-sinistra, come succede in tutto il mondo quando un nuovo gruppo dirigente prende il posto di quello vecchio. E se vince le primarie, è vero che questo giochino sul governo, ieri c'è stato questo giallo su Bersani e farei Renzi ministro, poi dopo ha dovuto smentire: no, sono tutti utili. Non mi dica che non è tempo di fare il giochino del governo. Lei lo farebbe il ministro di Bersani? No. No, nel modo più assoluto, perché ho sempre detto... Cioè, sembra quasi un no, una preclusione... Innanzitutto partiamo dal presupposto: io stima di Pierluigi Bersani, combatto una battaglia leale nei suoi, cioè, non tanto contro di lui, ma una battaglia di rinnovamento e di cambiamento del centro-sinistra. Io molto banalmente penso che le persone che ci hanno portato in questa situazione, quelli che da 20 anni governano il partito, non possono essere quelli che ci tirano fuori dal caos in cui siamo, quindi... La mia è una posizione più o meno discutibile, ma leale, chiara, trasparente. Sì. Questo non impone, non significa che io non abbia stima per Bersani. Però cos'è accaduto? Intanto, nel caso in cui io perda le primarie, voglio dire con molta franchezza che non voglio essere come tutti gli altri. Se lei fa l'elenco degli ultimi 7 anni, vedrà che alle primarie del centro-sinistra chi ha perso ha sempre chiesto una sorta di premio di consolazione. Bertinotti perde le primarie, presidente della Camera. Il meraviglioso Mastella, dove meraviglioso è tra 8 virgolette, perde le primarie e fa il ministro della giustizia come premio di consolazione. E Di Pietro, che come premio di consolazione fa il ministro dei lavori pubblici, dei trasporti. E Pecoraro Scanio. E poi la Bindi, che fa la vicepresidente della Camera. L'elenco potrebbe continuare. Lei io non vuole questo. Ma no, basta. Si fa le battaglie per le idee. Per cui, personalmente, se perdo le primarie, io rimango a fare il sindaco finché i fiorentini mi vorranno. Non vado in Parlamento, non vado a fare il ministro. Dopodiché, le dico con franchezza, se vinco le primarie vorrei lo stesso atteggiamento da parte degli altri. Ah, quindi Bersani ministro con Renzi premier mai. Ma non è un problema di Bersani, di Renzi o di Vendola. Sarebbe bello, a mio giudizio, se per una volta, in una battaglia che si annuncia finalmente seria, chi perde desse una mano fino all'ultimo giorno a chi ha vinto. Questo è un passaggio molto importante. Io non farò partiti per i fatti miei, io non scapperò con il pallone in caso di sconfitta. Chi perde da una mano, però senza legare il proprio contributo alla sistemazione personale. Insomma, mi dicono tutti che sono rampante arrivista, tutti loro, e sono l'arrivista che cerca una poltrona. Beh, una dimostrazione più chiara di questa: se perdo, nessuno sgabello. Mi pare che sia un segnale. Neanche una poltrona che Bersani ha già detto lascerà l'anno prossimo, cioè quella da segretario del Partito Democratico. A lei piacerebbe poter pensare di diventare segretario di quel partito? Ci sono persone molto più brave di me per farlo. Io credo di essere quello meno adatto. Meno adatto perché meno amato dal partito, forse. Ma forse anche perché non è nelle mie corde. A me piace fare le cose, vedere concretamente i risultati. Io sono un po' allergico. Cioè, il segretario non fa niente. Il segretario però va anche capito che cos'è il Partito Democratico e cosa sono i partiti oggi. 30 anni fa i partiti si riunivano, facevano cadere i governi. Io parto da un presupposto veramente di una politica all'americana, in cui il cittadino con le primarie si sceglie il candidato, il cittadino vota il proprio leader, e allora non c'è bisogno di quei fumosi e fumanti tavoli di coalizioni dove i segretari di partito danno la linea. Ecco, io sogno un governo dove il leader del governo non è che deve chiamare il segretario di partito per sapere che cosa deve fare. Quando l'Italia arriverà a quel livello là, sarà finalmente un paese come tutti gli altri in Occidente. Senta, c'è un grande dibattito sul tema dell'incandidabilità delle persone. Oggi Fini, presidente della Camera, intervistato dal Secolo XIX, dice: metterei l'incandidabilità al primo grado di giudizio, già una condanna in primo grado. Si discute se gli indagati, condannati in via definitiva. Lei personalmente come porrebbe, visto che i partiti non fanno nulla spontaneamente, ci vuole una legge, lei questa legge come la metterebbe? Già che ci voglia una legge è un elemento di grande tristezza e desolazione. Se lei vuol fare il bidello nella scuola ha bisogno di una fedina penale pulita, se lei vuole andare in Parlamento invece in alcuni casi, in alcuni partiti, pare che una condannina sia quasi, una condannuccia sia quasi un elemento di potenzialità in più. Credo che se la legge ci vuole, e penso che la legge ci voglia, la soluzione più ovvia sia quella di aspettare ragionevolmente per i reati minori la condanna in via definitiva, mentre potresti immaginare per i gravi reati, la mafia, la criminalità organizzata, la corruzione, la concussione, qualcosa di più e di diverso. Però c'è un primo grado, l'indagine addirittura, solo rinvia giudizio. Secondo me potrebbe, le technicalities dipendono a mio giudizio da com'è anche nel resto d'Europa. Io vorrei una normativa uguale per tutti in Europa, anche perché tutte le volte ci preoccupiamo dei tedeschi, degli spread vari. Beh, iniziamo a copiare quello che fanno gli altri. Se iniziassimo a copiare tante cose che non copiamo degli altri, sarebbe decisamente meglio. Dopodiché io le confesso con molta libertà, forse con persino un eccesso di libertà, una sensazione. La sensazione è che mentre il governo Monti in questo anno, nel bene e nel male, abbia rimesso in carreggiata il paese, dico nel bene e nel male perché Monti è stato straordinario nel recuperare prestigio al paese, il suo governo in alcuni casi a mio giudizio ha balbettato un po' troppo, bene, però mentre è evidente che oggi l'Italia è fuori dalla situazione più buia, c'è ancora una grave tensione internazionale, ma è fuori dalla prima linea. I politici, coloro che stanno in Parlamento, avevano promesso che mentre Monti avrebbe risolto i problemi economici, loro si sarebbero adoperati per fare una legge elettorale, la riorganizzazione dello Stato, la riduzione dei parlamentari. Non hanno fatto niente. Allora anche il Presidente della Camera, a cui va il rispetto istituzionale che è dovuto, forse dovrebbe riflettere sul fatto che ci avevano raccontato che avrebbero fatto una legge elettorale, ridotto il numero dei parlamentari, sistemato l'assetto istituzionale, per l'ennesima volta questa classe dirigente, che è lì da 20 anni, Fini a dire la verità anche da un po' di più, che è in Parlamento da una vita, ecco, sta prendendo in giro gli italiani. Alla fine secondo me il conto viene portato tutto in fondo. Senta, lei di recente qui anche in questi microfoni aveva detto sto con Marchionne senza se, senza ma, poi ha cambiato idea perché dice Marchionne ha tradito le aspettative. Ora qual è il suo rapporto con Marchionne, che ha dovuto comprare una pagina della Nazione per chiedere scusa ai fiorentini? Se venisse a Firenze come verrebbe accolto? No, aspetti, però lì se dobbiamo dirla tutta, ingegner Marchionne ha fatto tutto da solo, nel senso che... Ma lui dice di non avere mai detto che lei guida una cittadina, come l'ha detto, come era sui giornali, piccolina. Pretty and poor. Credo un'espressione di questo genere, però non era una conversazione in inglese. Marchionne spiega che è stata riferita una da parte questo tipo di definizione non era sua, non era ma sua, di un interlocutore. Però andiamo con ordine. La vicenda con Firenze mi pare che sia chiusa con la precisazione / scuse che Marchionne ha fatto alla città. Credo che non ci sia bisogno di perdere ancora tempo nel dire che Firenze è un patrimonio mondiale dell'umanità. Se tu attacchi Firenze e l'Italia, penso che tu non riesca poi a dire che la macchina italiana è simbolo di bellezza. Non parlo dal punto di vista squisitamente etico o estetico, parlo proprio dal punto di vista concreto. Questa anche ultima vicenda di Marchionne, i 19 assunti, io la vedo in questo modo rispetto a Marchionne. Io sono stato uno di quelli che a gennaio del 2011 ci ha messo la faccia dicendo che qualora fosse stato lui uno dei lavoratori della Fiat, avrebbe votato a favore del referendum proposto da Marchionne. Cosa stava in quel momento in ballo? Quali erano gli interessi in ballo? Da un lato un piano di investimenti chiamato Fabbrica Italia, che aveva un valore più o meno di circa 20 miliardi di euro, e dall'altro il cambiamento delle condizioni di lavoro. Cioè Marchionne diceva: se mi cambiate qualche regola del gioco, io investo 20 miliardi di euro. Che, detta da un'azienda, diciamo la verità, che in questi anni, in questi decenni, ha più preso che dato, perché la vedeva Fiat, come una cosa positiva. La vedeva come una cosa straordinariamente positiva. La Fiat in questi anni è stata per molto tempo capace di privatizzare gli utili e pubblicizzare i debiti attraverso il ricorso ad accordi con lo Stato di dubbio gusto e di dubbia efficacia. Marchionne su questo piano si è tirato indietro. Serve a poco che oggi evochi argomentazioni e cause che sono varie e variegate. Ma questa vicenda dei 19 assunti, sui 19... che qualcuno ha parlato di rappresaglia, di addirittura De Benedetti si è spinto a dire poteva fare come i tedeschi, 1 su 10. Beh, le dichiarazioni di De Benedetti le commenta De Benedetti, non io. Io credo che sia stato un errore. E che... quello di Marchionne. Ma cioè, assolutamente sì, perché 19 persone... dà il senso di un desiderio di non adempiere a un obbligo del giudice, perché lì non è che c'è, poi si può discutere se le leggi sono giuste o meno, ma se un giudice ti dice devi reintegrare, reintegra. Qual è che per cos'è, dov'è sta l'ipocrisia, se mi permette, di questa discussione? Che non stiamo facendo una discussione sul futuro dell'auto in Italia e in Europa. Cioè, io amministratore o potenziale leader nazionale, vorrei capire se noi abbiamo una strategia in un contesto nel quale tante realtà automobilistiche chiudono oggi. Perché? Perché le macchine si vendono meno. E non è nemmeno necessariamente un male, vorrei essere chiaro. Chiudono 3 stabilimenti di Ford, chiudono, chiudono vari stabilimenti in tutto il mondo. Allora noi che cosa facciamo per Termini Imerese, per le varie realtà che hanno oggi una sofferenza acuta? La politica italiana... E secondo lei Marchionne ce l'ha una strategia? La vede in Marchionne questo? Io spero, visto l'ultima intervista di Marchionne al Corriere della Sera di, direi, 2 o 3 giorni fa, forse qualcosa di più, spero che le strategie di Marchionne abbiano un senso e non siano illusorie come si è rivelata Fabbrica Italia. Lì sta la debolezza di Marchionne. Io per primo ho detto: ma come fai a essere credibile dopo che hai raccontato una cosa che non è stata considerata credibile? Però scusi, un politico dovrebbe anche porsi un altro problema. Continuiamo soltanto con la Fiat? Cioè, un politico serio prova a dire: sapete che c'è, a Termini Imerese o da un'altra parte, io cerco, nei limiti del potere del governo, che è ovviamente un potere di indirizzo, ma a me piacerebbe che venisse Volkswagen in Italia, a me piacerebbe che venisse Toyota in Italia, basta con questa sudditanza alla monomarca italiana. Si fermi un attimo, sindaco, ma lei la comprerebbe una Fiat? Fa delle belle macchine? Io ho una Volkswagen, ho un Charan Volkswagen. Eccola lì. Ho detto la verità, nel senso che probabilmente non voglio fare polemiche, nel senso che sa che quando è venuta fuori la macchina che più quando grada, è venuta fuori la battaglia, quando è venuta fuori la battaglia, la polemica con Marchionne, c'è stata una signora a Firenze che ha tirato fuori la battuta, secondo me più fiorentina, dicendo: ma noi, se fatto il Rinascimento, lui ha fatto la Duna, che è veramente un falso storico, in quanto non è stato certo Marchionne a fare la Duna. Però a me piacerebbe poter un domani tornare a comprare un'auto Fiat, però dipende dal mercato. Cioè, qui dobbiamo smettere di pensare che lo Stato sussidi e gestisca le politiche industriali. La politica industriale di un paese si fa dando degli indirizzi territoriali, dando una linfa e un'immagine nuova al paese, non con gli amministratori delegati che prendono la linea dal ministro pro tempore. Questo, secondo me, è una profonda diversità e divergenza anche all'interno del dibattito delle primarie. Io non voglio che il ministro dell'industria che verrà sia quello che mette bocca sulle scelte aziendali. Voglio che chi è l'amministratore delegato di una grande azienda italiana e mondiale rispetti le regole, questo è chiaro. A proposito di economia, qual è la prima cosa che farebbe da premier, in caso fosse premier, per abbattere il debito pubblico? Una cosa concreta, perché l'abbattimento del debito pubblico passa evidentemente da diverse operazioni, la prima delle quali è la vendita del patrimonio pubblico, ma è ridicolo pensare che tu possa vendere il patrimonio pubblico in costanza della normativa attuale. Mi spiego e glielo dico da sindaco: se lei domani mette le caserme e gli edifici pubblici dentro un grande fondo o li vende direttamente sul coinvolgendo soggetti internazionali e nazionali, sì, e lei non ha contestualmente modificato lo strumento urbanistico, per cui quella caserma non è soltanto una caserma d'uso militare, ma può essere un hotel 5 stelle in caso di città turistica o un luogo dove fare abitazioni per giovani coppie, se tu non fai questa procedura urbanistica, cioè vincolarla a, se a tu non fai questa procedura urbanistica non sei credibile, perché, mi scusi, anche il dibattito che io ho visto di alcuni di questi presunti tecnici sconta un limite pazzesco che c'è, e cioè che questi non hanno mai visto un consiglio comunale e una variante urbanistica in consiglio comunale. Sono troppo tecnici. Sa quanto ci vuole per fare una variante in consiglio comunale oggi, con le assurdità che sono derivate anche dalla riforma del titolo quinto della Costituzione? Perché cos'è accaduto? È accaduto che si è dato più potere sull'urbanistica alle regioni, che tutte o quasi le regioni hanno legiferato, rendendo ancora più complicato il percorso, e oggi lei, se vuole fare una variante urbanistica dentro una città, impiega molto più tempo e più scartoffie di quelle che un qualsiasi cittadino immagini. Cioè, noi sindaci siamo per primi le vittime della burocrazia. Allora, quando mi dicono abbatteremo il debito pubblico perché metteremo... Anche perché lo dicono da sì, 60 anni. Intanto tutti quelli che oggi si candidano dovrebbero dire che cosa hanno fatto da piccoli. Cioè dovrebbero portare la giustificazione. Però perché c'è stato 20 anni in Parlamento... Lei venderebbe il patrimonio. Questo potrebbe essere, vincolandolo ovviamente... Ma è evidente che c'è una parte significativa di patrimonio che va venduto. Perché? Per abbattere la spesa, invece, la spesa corrente... Ragioniamo di che cosa vuol dire la spesa corrente. Oggi vedo che c'è sui giornali i primi una stretta su 6.000 dipendenti pubblici. Dico due cifre per rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Noi abbiamo circa 170 miliardi di euro più o meno di spesa sul personale. Si dice il personale della pubblica amministrazione è troppo, e questa è anche l'impressione evidente che arriva entrando in un ufficio pubblico, anche da parte dell'amministratore. Però le dico che, guardando i numeri, il dato che vediamo è che più o meno è l'11.6% del PIL, cioè la spesa per il personale è più o meno in linea con il benchmark europeo. Quindi non è un dato su cui tu dovresti... Perché guadagnano meno rispetto all'Europa, sono tanti. C'è un tema di efficienza soprattutto, cioè che lei, che fa la posizione organizzativa al comune di Vatte la Pesca, non è premiato per ciò che fa e che non fa. Più o meno tutte le posizioni organizzative, i dirigenti sono tutti premiati con il massimo dei voti. Questo è un problema di gestione delle realtà sindacali e politiche all'interno delle varie istituzioni, e quindi io non credo che quella sia la prima voce da aggredire. So che magari adesso perdo qualche voto, ma come, Renzi, vuoi mantenere i dipendenti pubblici? No, io dico che con la cura dimagrante di questi ultimi 6-7 anni oggettivamente la spesa del personale si è ridotta, bisogna spenderli meglio questi 170 miliardi. Dov'è che vado invece a tagliare? Sui 120 miliardi di euro degli acquisti della pubblica amministrazione. È imbarazzante anche ciò che è avvenuto negli ultimi giorni rispetto alle polemiche sul Viminale, 1 miliardo di euro, o altri enti. Cioè questa voce qui invece, anche con Tremonti al governo, è cresciuta. Siamo passati dal 6 all'8.4% del PIL. Allora, se lei mi domanda da dove tagliare, parti, come? Per esempio, mettendo tutto con una centrale unificata. Le centrali acquisti hanno esperienze, acquisti anche lì. Mi perdoni se sono un po' noioso, magari da me si aspettano più le piroette linguistiche sulle rottamazioni, però di mestiere faccio il sindaco, per cui mi scusi se sono un po' noioso. Il Consip, lo strumento Consip, ha funzionato abbastanza. Ci sono però larghi settori di centrali acquisti che non funzionano come dovrebbero, e aggiungo, le faccio un esempio per non addormentare tutti, cioè tutto il tema della spesa nell'ICT, nell'Information Communication Technology, che ammonta a circa 5 miliardi di euro, è un settore particolarmente importante e significativo da aggredire. Se ci fosse un Mister Information Communication Technology nelle amministrazioni italiane, il risparmio sarebbe garantito. Guardi, noi abbiamo qua 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e poi dobbiamo chiudere, sindaco. Un caffè con D'Alema lo berrebbe? Sì.